so consolarmi, gentil pastorella. Non voglio svirare. Consolati, io. Consolati, no. Oh, bella, non voglio. Che degno tu cuore, che degno tu cuore, amor troverà. Sì, sì, no, no. Sì, sì, non voglio svirare. Consolati, io. Consolati, no. Oh, bella, non voglio.